Ela só che tu sei sbatti forever. Ma tutto andrà bene, fidati my friend. Yeah. E se Dio non c'è 7 giorni su 7, vedrai che verrà con noi questo weekend. Woo. E piango in discoteca come gli Alcazar. Sbaccio ma non bevo su nel Ramadan. Ho 40 ladroni come Alibaba. Non finiamo il rehab ma finiamo il kebab. C'è chi canta insieme a una sirena. C'è chi balla dentro a una galera. Dove è sempre mezzanotte. Tu lo sai che sei mio brode. Vorrei dirti tante cose. Urlo forte. I love you. I love you. Vorrei volerti bene. I love you, te quiero, bahebek jete. Si muore da soli, si vive together. Gang, gang, gang. E a che serve il sangue, la guerra e la yeah, yeah, yeah. Ti sento come se non ci fossero muri. Mi sento come se non avessi più dubbi. Ti mando un pezzo, premi play, metti le cuffie e fuggi. Sto arrivando da te, Gali libera tutti. Non moriamo mai, non moriamo mai, neanche se fai pom pom. L'effetto che fai, l'effetto che fai, mi manda nel vuoto. Dove è sempre mezzanotte, tu lo sai che sei mio brode. Vorrei dirti tante cose, urlo forte. I love you, I love you. Qualcosa da farti sentire, connettimi al Bluetooth. E c'ho un mare di problemi, dai bene fartici un tuffo. Sto ballando da ieri soltanto per chiedere aiuto. Agli UFO, aiuto, aiuto.